Capitolo 4. Il mio primo atto, non appena misi piede a Holloway, fu di pretendere di parlare con il direttore. Quando arrivò, gli dissi che le suffragette avevano deciso che non sarebbero state più disposte ad essere trattate come delinquenti comuni. Nel corso del nostro processo, due ministri del governo avevano ammesso che eravamo prigioniere politiche e quindi d'ora in avanti ci saremmo rifiutate di essere perquisite o spogliate dalle carceriere. Per me, chiesi che mi fosse riconosciuto il diritto, e speravo che le altre facessero lo stesso, di parlare con le mie amiche durante l'esercizio fisico o ogni qualvolta fossi venuta a contatto con loro. Il direttore, dopo averci riflettuto, cedette alle mie prime due richieste, ma disse che doveva consultarsi con gli affari interni prima di consentirci di rompere la regola del silenzio. Ci fu quindi accordato di cambiarci d'abito in privato e, come ulteriore concessione, fummo sistemati in celle adiacenti. Per me, tuttavia, questo vantaggio non si protrasse a lungo, poiché nel giro di qualche giorno venni trasferiti in una cella d'ospedale, per via del riproporsi della malattia che la vita della galera non mancava mai di infliggermi. Qui il direttore venne a farmi visita con l'indesiderata notizia che il segretario di Stato si era rifiutato di concedermi il privilegio di parlare con le mie colleghe detenute. Gli chiesi se potevo almeno, quando mi fossi ripresa abbastanza da camminare, fare ginnastica insieme alle mie amiche. A questa richiesta acconsentì, e così ebbi presto la gioia di rivedere mia figlia e le altre coraggiose compagne e di passeggiare con loro nello squallido cortile della prigione. Camminavamo in fila indiana, a distanza di 1 metro l'una dall'altra, avanti e indietro sotto lo sguardo duro delle carceriere. Il ruvido lastricato ci faceva dolere i piedi, infilati nei pesanti e sformati scarponi del carcere. Le giornate autunnali erano fredde e grigie e noi tremavamo violentemente sotto le nostre succinte mantelle, ma tra tutte le avversità, l'incessante mutismo delle nostre vite era la cosa peggiore. Alla fine della seconda settimana decisi che non avrei più tollerato una simile situazione. Un pomeriggio, durante l'ora d'aria, chiamai improvvisamente mia figlia per nome e le dissi di fermarsi finché non l'avessi raggiunta. Naturalmente lei si fermò e quando le fui accanto unimmo le braccia e cominciammo a parlare a voce bassa. Una secondina venne da noi correndo e fece: «Starò qui a sentire tutto quello che vi dite». Io replicai: «Sei libera di farlo, ma io continuerò a esercitare il mio diritto di parlare con mia figlia». Un'altra secondina si era allontanata di fretta dal cortile. E adesso era tornata con un gran numero di carceriere. Mi afferrarono e mi riportarono subito in cella, mentre le altre detenute suffragiste facevano il tifo per me, alzando la voce più che potevano. Per il loro ammutinamento si beccarono 3 giorni di isolamento e io ebbi una punizione ben più severa. Ostinata, disse al direttore che quale fosse la punizione che intendeva infliggermi, non mi sarei mai sottomessa alla regola del silenzio. Proibire a una madre di parlare con sua figlia era una cosa ignobile. Per questo venni marchiata come una pericolosa criminale e fui spedita in isolamento, senza ora d'aria, né la possibilità di visitare la cappella, con una carceriera che stazionava costantemente davanti alla mia cella per accertarsi che nessuno comunicasse con me. Passarono 2 settimane prima che potessi rivedere le mie amiche e nel frattempo la salute della signora Drummond si era compromessa così seriamente che venne rilasciata per poter iniziare una terapia ospedaliera. Anche mia figlia venne a sapere se era ammalata e nella disperazione presentai una domanda all'ufficio dei giudici delle visite perché mi concedessero di vederla. Dopo una lunga riunione, durante la quale fui lasciata ad aspettare in corridoio, i giudici mi comunicarono un rifiuto, dicendo che avrei potuto ripresentare la mia domanda il mese successivo. A quel punto la risposta, dissero, sarebbe dipesa dalla mia condotta. Un mese. La mia ragazza poteva essere morta quel giorno. L'ansia mi spedì di nuovo a letto malata, ma benché non potessi saperlo, qualcuno stava già venendo in mio soccorso. Avevo detto ai giudici delle visite che avrei atteso fino a quando l'opinione pubblica non fosse riuscita a entrare tra queste mura, e questo accadde prima di quanto avessi potuto sperare. Non appena fui in grado di ricomparire in pubblico, la signora Drummond, insieme alle altre detenute suffragiste, quando vennero rilasciate, fece circolare la storia del nostro ammutinamento e di quello successivo guidato dalla signorina Wallace Dunlop, che aveva mandato in isolamento un nutrito gruppo di donne. Le suffragette marciarono a migliaia verso Holloway, avvicinandosi in massa alla strada della prigione. Marciarono attorno all'edificio cantando la Marsigliese delle donne e innalzando grida di incoraggiamento. Il suono giunse debolmente alle nostre orecchie, ma alleggerendo di molto il nostro carico di dolore e solitudine. Tornarono la settimana seguente, ma lo venimmo a sapere solo più tardi, poiché questa volta la polizia le fece indietreggiare quando erano ancora distanti dal perimetro del carcere. Le dimostrazioni, insieme a una raffica di interrogazioni presentata alla Camera dei Comuni, finirono per sortire effetto. Dalla segreteria di Stato giunse l'ordine di permettere che io vedessi mia figlia e che tutte noi potessimo passeggiare e parlare insieme per un'ora al giorno. In più ci venne accordato il raro privilegio di leggere un quotidiano. Poi, l'8 dicembre, giorno del rilascio di Christabel, fu disposta anche la mia liberazione, 2 settimane prima della scadenza della condanna. Alla colazione di bentornata organizzata al Lincoln's Inn Hotel per noi, prigionieri rimessi in libertà, disse alle nostre associate che da allora in avanti avremmo insistito nel rifiuto a rispettare le regole del carcere ordinario. Non proponevano di infrangere la legge e di sottrarci poi alla punizione. Volevamo semplicemente ribadire il nostro diritto ad essere riconosciute come prigioniere politiche. Giungemmo a queste conclusioni dopo un'attenta riflessione. Ci riproponemmo di non lamentarci del carcere, di non parlarne proprio, di evitarlo, di non badare a tutte le questioni secondarie, di puntare dritto alla strada della riforma politica, di ottenere il voto, perché sapevamo che una volta conquistato quel diritto avremmo potuto riformare le carceri e anche tanti altri strumenti di prevaricazione. Ma ora che dal banco dei testimoni il Consiglio dei Ministri ci aveva riconosciuto come fuori legge politiche, avremmo dovuto pretendere in futuro il trattamento riservato in tutti i paesi civilizzati ai trasgressori politici maschi. Se le nazioni, dissi, sono ancora governate in modo da far sì che esistano i trasgressori politici, allora la Gran Bretagna deve trattare i suoi trasgressori politici come vengono trattati i trasgressori politici negli altri paesi. Se fosse stata una consuetudine trattare i trasgressori politici al pari dei comuni criminali contro la società, non ci saremmo lamentati di un simile trattamento. Ma non è questa la consuetudine internazionale. E quindi, per rispetto della dignità delle donne di questo paese e per il bene della coscienza degli uomini di questo paese e per il bene della nostra nazione tra le nazioni del mondo, in futuro non permetteremo più al governo liberale di trattarci come criminali comuni. Dissi le stesse cose quella sera a una grande riunione tenutasi alla Queen's Hall per dare il bentornato alle detenute rimesse in libertà. E sebbene noi stesse sapessimo che la nostra determinazione implicasse tanti sacrifici, le nostre donne l'appoggiarono senza un attimo di esitazione. Fossero state in grado di prevedere gli eventi che già allora stavano gettando un'ombra su di noi, avessero potuto immaginare le nuove forme di pericolo e sofferenze che ci attendevano. Sono sicura che avrebbero agito nello stesso modo, perché l'esperienza ci aveva insegnato a mettere da parte la paura. Qualsiasi timidezza, qualsiasi remora causata dal dolore o dalla difficoltà avessimo avuto, era tutto svanito. Non c'era orrore che non eravamo pronti ad affrontare. L'anno 1909 segna un passaggio importante per la nostra lotta, in parte per questa nostra decisione di non sottometterci più ad essere classificate come criminali comuni, in parte perché durante quest'anno costringemmo il governo liberale a rilasciare pubblicamente dichiarazioni ufficiali in merito al più vecchio dei diritti del popolo, il diritto di presentare una petizione. Avevamo ponderato a lungo questa mossa e adesso i tempi sembravano maturi. Negli ultimi giorni del 1908 il signor Asquith, parlando della linea politica che avrebbe seguito nel 1909, fece dei commenti sulle varie delegazioni che al tempo era obbligato a ricevere. Disse che gli lanciavano appelli da tutte le regioni e per tutte le cause, con una media di qualcosa come 2 ore per 3 giorni di ogni settimana. Le delegazioni chiedevano tutte cose diverse e seppure non tutte le questioni potevano trovare posto nel discorso del re, Asquith era propenso a concedere che ne venissero incluse almeno alcune. La dichiarazione del primo ministro, secondo cui riceveva regolarmente le delegazioni degli uomini e ascoltava con favore i loro suggerimenti sulla linea politica da intraprendere, suscitò un senso di profonda indignazione fra le suffragette. Lo espressero in parte il 25 gennaio, quando ebbe luogo la prima riunione del Consiglio del Governo. Una piccola delegazione della WSPU si recò a Downing Street reclamando il diritto di essere ascoltata come venivano ascoltati gli uomini. Per aver bussato alla porta della residenza ufficiale, quattro donne, tra cui mia sorella, la signora Clark, furono arrestate e mandate in galera per un mese. Un mese dopo si tenne il settimo dei nostri parlamentari delle donne per protestare contro questa carcerazione e contro il fatto che nel discorso del re non fosse stata menzionata affatto la questione delle donne. Guidata dalla signora Patkin Lawrence, da Lady Constance Linton e dalla signorina Daisy Salomon, una delegazione di donne tentò di recapitare la risoluzione alla Camera dei Comuni. Furono prontamente arrestate e il giorno seguente vennero spedite in carcere per scontare pene da 1 a 2 mesi. Si stava rapidamente avvicinando il momento in cui la legalità di questi arresti sarebbe stata messa sotto esame. A giugno del 1909 tale esame fu effettuato. Si ricorderà che avevamo provato a costringere le autorità a ritirare la minaccia di processarci sotto l'obsoleta legge di Carlo II sulle tumultuose petizioni, che prescrive severe punizioni per chiunque si presenti in Parlamento in gruppi superiori a 12 persone con lo scopo di inoltrare delle petizioni. Era stato dichiarato che se fossimo state processate in base a quella legge, la nostra causa si sarebbe tenuta davanti ad un giudice o a una giuria, anziché a un magistrato di polizia. Dato che questo era esattamente ciò che volevamo, avevamo invitato una dopo l'altra delegazioni composte da più di 12 persone, ma erano sempre state processate nei tribunali di polizia e spesso erano state mandate in carcere per scontare periodi di detenzione stabiliti dalla legge di Carlo II. Ora eravamo decisi a fare qualcosa di ancora più ambizioso. Decidemmo di mettere alla prova non la legge di Carlo II, ma il diritto costituzionale di ogni soggetto di presentare una petizione al primo ministro in quanto sede del potere. Il diritto di petizione, che esisteva in Inghilterra fin dai primi tempi, di cui si hanno testimonianze, era incluso nel Bill of Rights, la dichiarazione dei diritti che divenne legge nel 1689 con l'avvento di Re Guglielmo III e della Regina Maria. Era di fatto una delle condizioni poste all'ascesa al trono dei monarchi reggenti. Secondo il Bill of Rights, è diritto dei sudditi presentare petizioni al re e ogni incriminazione o persecuzione per tali petizioni sono illegali. Essendo il potere del re passato quasi completamente nelle mani del Parlamento, ora il primo ministro si trova nella posizione in cui si trovava al tempo Sua Maestà il re. Chiaramente il diritto dei sudditi di presentare petizioni al primo ministro non poteva essere legalmente negato. Questo lo sapevamo bene e per attenerci strettamente alla legge accettammo le limitazioni del diritto di petizione, così come compariva nell'atto di Carlo II, e stabilimmo quindi che le nostre petizioni venissero portate alla Camera dei Comuni da piccoli gruppi di donne. Convocai di nuovo un Parlamento delle donne per la sera del 29 giugno. In precedenza avevo scritto al signor Asquith che una delegazione di donne lo avrebbe aspettato alla Camera dei Comuni alle 8 di quella sera stessa. Scrissi inoltre che non potevamo essere respinte perché avevamo il diritto costituzionale di essere ricevute. Alla mia nota il primo ministro rispose con una nota formale rifiutandosi di riceverci. Ciononostante andammo avanti con i nostri preparativi perché sapevamo che il primo ministro avrebbe opposto l'ennesimo rifiuto, ma che alla fine sarebbe stato costretto a riceverci. Un incidente accaduto una settimana prima dell'appuntamento della delegazione era destinato ad avere importanti conseguenze. La signorina Wallace Dunlop entrò alla St. Stephen's Hall della Camera dei Comuni e scrisse un estratto del Bill of Rights con inchiostro di stampa sul marmo della stanza. Al primo tentativo era stata interrotta da un poliziotto, ma 2 giorni dopo riuscì a intraprendere sulle antiche pareti il promemoria per il Parlamento che le donne possiedono gli stessi diritti costituzionali degli uomini e che avevano tutta l'intenzione di far valere quei diritti. Fu arrestata e rinchiusa in carcere per un mese, nella terza divisione. Le fu offerta l'opzione di una pesante multa, che lei ovviamente rifiutò. Il periodo di detenzione della signorina Wallace Dunlop ebbe inizio il 22 giugno. Probabilmente il suo gesto aveva a che fare con la grande attesa per l'imminente delegazione, attesa mostrata non solo dal pubblico, ma anche dai parlamentari stessi. Alla Camera dei Comuni, il forte presentimento che stavolta le donne dovessero essere ricevute si manifestò con varie interrogazioni poste al governo. Un parlamentare propose persino di aggiornare la seduta della Camera su una materia di così urgente rilevanza, ossia il pericolo di disordine pubblico dovuto al rifiuto del primo ministro di ricevere la delegazione. Questo rinvio non fu però accordato e il governo si tirò fuori ingannevolmente da ogni responsabilità per qualsiasi azione la polizia avesse intrapreso nei confronti della delegazione. Il segretario di Stato, Gladstone, quando Keir Erdi lo invitò a dare ordini di lasciare accedere la delegazione, si è disciplinata alla St. Stephen's, replicò: «Io non posso dire alla polizia cosa deve fare in questa situazione». Il nostro Parlamento delle donne si riunì alle 7:30 di sera del 29 giugno e la petizione al primo ministro fu letta e approvata. Poi la nostra delegazione si avviò. Alla guida, di fianco a me, c'erano due rispettabilissime donne in età avanzata, la signora Saul Solomon, il cui marito era stato primo ministro a Città del Capo, e la signorina Neligan, una pioniera tra le educatrici in Inghilterra. Noi, tre e altre cinque donne, fummo precedute dalla signorina Elsie Howey, che incedeva velocemente a cavallo per annunciare il nostro passaggio all'enorme massa di gente che riempiva le strade. Più tardi venimmo a sapere che era riuscita ad avvicinarsi alla Camera dei Comuni fino a che la polizia non l'aveva rimandata indietro. Quanto alla delegazione, ci facemmo strada tra la folla fino alla chiesa di St. Margaret a Westminster, dove incontrammo un lungo schieramento di polizia che bloccava il transito. Ci prendemmo un momento di pausa, tenendoci strette per tentare di passare attraverso lo schieramento, quando accadde una cosa inaspettata. Qualcuno diede un comando e la polizia aprì inaspettatamente le sue linee, lasciando un evidente spazio attraverso cui ci incamminammo per raggiungere la camera. Fummo scortate dall'ispettore Wells e mentre passavamo la gente faceva il tifo a gran voce, fermamente convinta che nonostante tutto stessimo per essere ricevute. Da parte mia cercai di ragionare un po' su quello che stava per succedere. Guidai la delegazione fino all'ingresso della St. Stephen's Hall. Lì ci imbattemmo in un'altra robusta forza di polizia al comando di una nostra vecchia conoscenza, l'ispettore Scandebury, che fece un passo avanti e mi consegnò una lettera. L'aprì e la lessi a voce alta. Il primo ministro, per motivi già indicati in una risposta scritta alla sua richiesta, si rammarica di non poter ricevere la richiedente delegazione. Gettai a terra la lettera e dissi: «Mi appello al mio diritto, come suddito del re, di presentare una petizione al primo ministro. E sono risolutamente decisa a restare qui fin quando non verrò ricevuta». L'ispettore Scandalbury si voltò e si diresse rapidamente verso la porta della Stranger's Entrance. Io mi rivolsi all'ispettore Jervis, che era lì, a diversi parlamentari e giornalisti che rimasero fermi a osservare. Li pregai di portare il mio messaggio al primo ministro, ma nessuno rispose. L'ispettore, afferrandomi per un braccio, cominciò a spingermi via. Ormai avevo capito, ormai che la delegazione non sarebbe stata ricevuta e che sarebbe riandato in scena il solito triste spettacolo di noi, che ci rifiutavamo di andarcene, venivamo spinte verso l'esterno e provavamo più e più volte a rientrare fino ad arrivare all'arresto. Dovevo tenere conto che ero accompagnata da due fragili signore anziane, che coraggiose anche solo per essere state lì, non avrebbero potuto sostenere quello che sapevo sarebbe successo. Decisi velocemente di forzare le cose per indurre un arresto immediato, perciò commisi un gesto tecnicamente di aggressione contro la persona dell'ispettore Jervis, dandogli un leggero buffetto sulla guancia. Lui disse all'istante: «Capisco perché l'avete fatto». E allora credetti che ci avrebbero arrestati su due piedi. Ma a quanto pare gli altri poliziotti non afferrarono la situazione, perché cominciarono a spintonare le nostre donne. Disse l'ispettore: «Devo farlo ancora?» E lui disse: «Sì». Perciò lo colpì leggermente una seconda volta e a quel punto ordinò alla polizia di arrestarci. La faccenda non si chiuse con l'arresto della nostra delegazione di 8 donne. Ripresentandosi a gruppi di 12, le suffragette continuarono invano ad avanzare nel tentativo di raggiungere la Camera dei Comuni. Malgrado la folla ci fosse amica e facesse tutto quello che poteva per aiutarci, le delegazioni furono disgregate e molte delle donne arrestate. Alle 9 la piazza del Parlamento era deserta, tanto che un'imponente forza di polizia a cavallo aveva rimandato indietro la gente su Victoria Street e su Westminster Bridge. Per qualche momento sembrò essere tornato tutto alla calma, ma presto piccoli gruppi di donne, 7 o 8 per volta, ricomparivano dal nulla e si lanciavano precipitosamente verso la camera. Questa eccezionale strategia finì per esasperare i poliziotti, che non riuscivano a capacitarsi da dove spuntassero fuori quelle donne. Trattandosi ormai di storia passata, la spiegazione è che la WSPU aveva affittato una trentina di uffici nelle vicinanze, nei quali le donne si rifugiavano in attesa del momento buono per tentare una sortita. Fu una lampante dimostrazione dell'ingegnosità delle donne contro la forza fisica degli uomini, ma servì anche per un altro scopo. Distrasse l'attenzione della polizia da un'altra manifestazione che si stava svolgendo. Altre suffragette erano andate alla residenza ufficiale del primo lord dell'ammiragliato, alle sedi degli affari interni del tesoro e del consiglio della corona, e avevano messo a registro il loro sdegno per il rifiuto del governo di ricevere la delegazione, usando il vecchio metodo di sfasciare una finestra per ogni ufficio. Quella notte furono arrestate 108 donne. Ma anziché sottostare all'arresto e al processo, la WSPU annunciò che si sarebbe preparata a dimostrare che era stato il governo e non le donne a infrangere la legge, rifiutandosi di accogliere la petizione. Il mio caso, insieme a quello dell'onorevole signorina Arver Field, fu scelto come test per tutti gli altri e Lord Robert Cecil fu nominato per la difesa. Il signor Musket, che conduceva il procedimento, cercò di provare che le nostre donne non erano andate alla Camera dei Comuni per presentare una petizione, ma fu semplice dimostrare che si trattava di un'affermazione del tutto priva di fondamento. I discorsi del capo della delegazione, gli articoli ufficiali pubblicati sul nostro foglio, Votes for Women, e le lettere inviate al signor Asquith, per non parlare dell'indiscutibile fatto che ciascun membro della delegazione avesse in mano una copia della petizione, fornivano prove a sufficienza sulla natura della nostra commissione. L'intero caso del diritto di petizione del suddito fu poi aperto alla discussione. Musket parlò per primo, poi toccò al nostro consigliere, il signor Henley, e poi a Lord Robert Cecil. Per ultima parlai io, descrivendo gli eventi del 29 giugno. Disse al magistrato che se avesse deciso che noi e non il governo eravamo colpevoli di aver infranto la legge, non avremmo accettato di sottoporci agli obblighi legali, promettendo di comportarci bene per un dato periodo, ma avremmo tutte scelto la prigione. In quel caso non avremmo tollerato di essere trattate come criminali comuni. Oggi qui ci sono 108 di noi, dissi, indicando i banchi dove sedevano le mie compagne imputate. E proprio come ritenevamo che fosse nostro dovere sfidare la polizia nelle strade, non appena entreremo in carcere, essendo prigioniere politiche, faremo di tutto per portare nel XX secolo il trattamento dei prigionieri politici che si reputava corretto nel caso di William Scobbett e di altri trasgressori politici dei suoi tempi. Il magistrato, Sir Albert de Ruthen, un amabile uomo anziano, alquanto confuso da questa situazione senza precedenti, comunicò la sua decisione. Concordò con il signor Henley e con Lord Robert Cecil che il diritto di petizione era chiaramente garantito da ogni suddito, ma riteneva che quando le donne si erano viste opporre il rifiuto ad accedere alla Camera dei Comuni e quando il signor Asquith aveva detto che non le avrebbe ricevute, le donne si erano comportate in modo sbagliato, insistendo nella loro pretesa. Le multava quindi di 5 sterline ciascuna o le condannava a un mese di carcere nella seconda divisione. La sentenza fu per un momento sospesa fino a quando il Consiglio non avesse acquisito una decisione di una Corte superiore sul merito legale del diritto di petizione. Io a quel punto avanzai una richiesta a nome delle imputate, che tutte le loro cause venissero posticipate a dopo che si fosse presa una decisione sul caso in esame, e la richiesta fu accolta, tranne che per le 14 donne accusate di aver rotto le finestre. Furono processate separatamente e mandate in carcere con pene che variavano dalle 6 settimane ai 2 mesi. Delle altre si sarebbero occupate in seguito. Il ricorso contro la decisione di Sir Albert de Rutzen fu esaminato in corte d'appello all'inizio di dicembre di quello stesso anno. Lord Robert Cecil fu nuovamente il difensore e con magistrali argomentazioni affermò che in Inghilterra c'era e c'era sempre stato il diritto di petizione, e che il diritto era sempre stato considerato una condizione necessaria per un paese libero e per un governo progredito. Il diritto di petizione, sottolineò, aveva 3 caratteristiche. In primo luogo era il diritto di presentare delle petizioni agli effettivi depositari del potere. Secondo, era il diritto di presentare una petizione di A sostegno del diritto di presentare petizioni di persona, fu offerta una lunga lista di precedenti storici, ma Lord Robert precisò che, se anche questi esempi non fossero esistiti, il diritto era comunque ammesso dalla legge di Carlo II, tumultuose petizioni, la quale prevede che nessuna persona o gruppo di persone può recarsi da Sua Maestà o al Parlamento con la pretesa di presentare o consegnare alcuna petizione, lamentela, rimostranza o dichiarazione o altre istanze, accompagnato da un eccessivo numero di persone. Il Bill of Rights aveva in particolare ribadito il diritto di petizione per quanto riguardava il re in persona. Le donne, proseguì Lord Robert, erano andate al Parliament Square il 29 giugno nell'esercizio di un semplice diritto costituzionale e, andandovi, recando una petizione, avevano agito in base all'unico metodo costituzionale in loro possesso, essendo escluse dal voto, per tentare di soddisfare le loro rivendicazioni. Se dunque era vero, come affermato, che il suddito non solo aveva il diritto di petizione, ma anche di presentare una petizione di persona, restava soltanto da stabilire se il diritto era stato esercitato in maniera ragionevole. Se le persone desideravano avere un colloquio con il primo ministro, di certo era ragionevole andare alla Camera dei Comuni e presentarsi alla Stranger's Entrance. La signora Pankhurst, la signora Everfield e le altre avevano, come dimostrava l'evidenza, percorso la pubblica via ed erano state scortate fino alla porta della Camera dei Comuni da un ufficiale di polizia e pertanto non si erano comportate in modo illecito, stando al merito della questione. La polizia aveva aperto un ampio varco davanti alla Camera dei Comuni, tenendo la folla a una certa distanza. Attraverso questo varco aperto passavano soltanto le persone che avevano un motivo per dirigersi verso la Camera dei Comuni, membri della forza di polizia e le 8 donne che formavano la delegazione. Non era possibile sostenere che queste donne avessero costituito un intralcio. Era vero che un ufficiale di polizia aveva detto loro che il primo ministro non si trovava alla Camera dei Comuni, ma quando qualcuno vuole avere un colloquio con un membro del Parlamento non si accontenta di porgere la sua richiesta a un qualsiasi poliziotto incontrato per strada. In più, la polizia non ha alcuna autorità di fermare chiunque voglia recarsi alla Camera dei Comuni. La lettera consegnata alle donne, in cui il primo ministro diceva che non poteva o non voleva vederle, era stata citata. Il punto è che se il primo ministro nella sua lettera avesse detto che non voleva o non poteva vederle in quel momento, che il momento non era opportuno, ma che in un futuro più opportuno, le avrebbe ricevute, quella sarebbe stata ritenuta una risposta sufficiente. Le donne non sarebbero state giustificate se si fossero rifiutate di accettare una tale risposta, perché il diritto di petizione deve essere esercitato in maniera ragionevole. Ma la lettera conteneva un rifiuto incondizionato, che anzi non era affatto una risposta, se si dà per certo l'esistenza del diritto di petizione. Come ultimo, Lord Robert asserì che se esiste il diritto di petizione a un membro del Parlamento, allora esiste anche il dovere da parte del membro del Parlamento di ricevere la petizione e nessuno ha il diritto di molestare il richiedente. Se le 8 donne erano legalmente ammesse a presentare la loro petizione, allora era anche giustificato il loro rifiuto a obbedire all'ordine della polizia di abbandonare il luogo. Con un discorso pieno di pregiudizi, rivelando chiaramente di non avere un'accurata conoscenza degli eventi che costituivano il caso in esame, il presidente della Corte Suprema espresse il suo giudizio. Disse di trovarsi completamente d'accordo con Lord Robert Cecil per quanto riguardava il diritto di presentare una petizione al primo ministro, che si trattasse del primo ministro stesso o di un membro del Parlamento, e concordò anche sul fatto che le petizioni al re dovessero essere presentate al primo ministro. Ma la pretesa delle donne, disse, non era semplicemente quella di presentare una petizione, ma di essere ricevute in delegazione. Non riteneva verosimile il rifiuto del signor Asquith ad accogliere una petizione presentata dalle donne, ma il suo diritto di ricevere la delegazione non era innaturale, in conseguenza di ciò che era accaduto nelle occasioni precedenti. Richiamando il Metropolitan Police Act del 1839, che stabilisce la legittimità del commissario di polizia ad applicare delle norme e a dare istruzioni agli agenti al fine di mantenere l'ordine e prevenire qualsiasi blocco delle strade nelle immediate vicinanze della Camera dei Comuni, e ricordando che il servizio d'ordine della seduta parlamentare in corso autorizzava la polizia a tenere sgombre le vie d'accesso alla Camera dei Comuni, il presidente della Corte Suprema sentenziò che io e le altre donne ci eravamo rese colpevoli di un'infrazione alla legge quando avevamo insistito sul diritto di accedere alla Camera dei Comuni. Il presidente deliberò quindi che la condanna emessa dalla Corte inferiore era stata appropriata e il nostro ricorso in appello fu respinto, con le spese processuali a carico. Così in Inghilterra si annientava l'antico diritto costituzionale di petizione, garantito al popolo dal Bill of Rights e tanto caro a innumerevoli generazioni di inglesi. Dico che il diritto fu annientato, perché quale valore ha una petizione che non può essere presentata di persona? La decisione dell'alta corte sconcertò i membri della WSPU, poiché sbarrava l'ultima possibilità di accedere, con mezzi costituzionali, alla nostra emancipazione. Lungi dal scoraggiarci o demotivarci, tutto ciò finì per spronarci a intraprendere nuove e più aggressive forme di militanza.